Mix 24. Sono Giovanni Minoli. Il 15 settembre torna Mix 24 con le provocazioni dei faccia a faccia. Ma il Presidente della Repubblica cosa può fare? O scioglie le Camere o fa un nuovo governo? Ma io credo che il Presidente della Repubblica, nella sua grande saggezza, prenderà le decisioni giuste. Gli Agnelli hanno fatto più bene o più male all'Italia? Beh, tirando le somme oggi, molto più male, soprattutto in considerazione di quello che l'Italia ha fatto per loro. Le inchieste. Sono veramente arrabbiato. Ma anche noi, i romani arrabbiati, sindaco, no, per questo. E hanno ragione, dovrebbero inseguire la politica con i forconi. Io da domenica blocco la città. Oh, le sfide della gente. Bisogna rimboccarsi le maniche, andare nel mondo, andarsi a cercare i mercati. E ancora le novità in rosa di Sara Tardelli. La libertà e la passione alla fine, Giovanni, fanno paura. I graffi di Mario Sechi e i salamini di Pietrangelo Buttafuoco. La storia raccontata da Marina Milone. Torino, 15 novembre 2000. Edoardo Agnelli, il figlio dell'avvocato, si alza molto presto. E l'attualità come non l'avete mai sentita. Ogni giorno saremo a caccia di verità con il fact-checking, le parole alla prova dei fatti, per il piacere di saperne di più. Allora dal 15 settembre torniamo in forza. Intanto oggi la storia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nell'anniversario della sua morte, con un commento di Giuseppe Settin intervistato da Marina Milone. Ma per cominciare vi proponiamo un faccia a faccia illustre. Remo Ruffini. Il faccia a faccia. Remo Ruffini, 53 anni, comasco, sposato con due figli, è l'azionista di maggioranza della Moncler. L'azienda, rilevata nel 2002 da un fallimento e trasformata nel più clamoroso caso di successo nella quotazione in borsa di questi anni. Figlio d'arte, da giovane va in America a trovare il padre, resta affascinato dal New England e da quello stile. Torna in Italia, lo sposa con la creatività italiana. Nel 2003 compra Moncler e inizia il successo. Con la quotazione in borsa, dice, le aziende cambiano faccia, sono più visibili sul piano internazionale e più attraenti per i talenti globali. A lui è capitato. Oggi Moncler è il simbolo di eleganza trendy. Ecco, dottor Ruffini, manca solo che Renzi si presenti da Obama e la Merkel con un piumino Moncler, è fatta. Speriamo. Sarebbe una bella idea, quindi insomma suggeriamoglielo. Certo. Senta, ma in fondo dovrebbe essere lui, no, il campione del Made in Italy, quello è un modo di farlo. Andare in giro per il mondo. Sì, certo, è importantissimo essere internazionale, globale, è il successo di un'azienda, il successo di un imprenditore, il successo di un politico, dunque bisogna essere, credo, il più internazionale possibile oggi per creare un valore a qualunque cosa, a un'azienda, a una città, a uno Stato, capire come funziona il mondo e avere un feedback dai consumatori, avere un feedback dagli imprenditori per capire cosa sta cambiando. E credo che oggi per avere un'azienda moderna deve avere una strategia che si deve adattare, si deve praticamente tutti i giorni cambiare per avere una visione del mondo un po' diversa. Ecco, senta, dottor Ruffini, ma che cosa rende un prodotto improvvisamente super trendy? Ma non credo che dalla sera alla mattina costruisci niente. Io credo che abbiamo iniziato, come diceva lei prima, nel 2003, pian pianino, un buon prodotto, una buona comunicazione, la qualità, le performance, dunque è molto importante secondo noi avere un paniere, un insieme di tante piccole cose che creano una che marca. Che fanno la perfezione. Esatto. Senta, ma negli anni 80 Richard Gere ha reso Armani un marchio globale. È una strada anche per voi quella? Beh, è fondamentale, come dicevo, avere un feedback giornalmente dai consumatori. Ma come metodo, cioè il suo marketing di prodotto punta anche sulle storie, i personaggi del cinema, della fiction, dello sport oppure no? Beh, che sono i migliori comunicatori. E no? Lo fate? Ci lavoriamo molto, no? Nel senso, siamo vicini a questi consumatori, un bel piumino su una bella donna famosa è la più bella pubblicità del mondo. Senta, dottor Ruffini, adesso lei è stato protagonista, l'abbiamo detto, della più clamorosa collocazione in borsa degli ultimi anni. Ma si aspettava un successo così? No, ci abbiamo lavorato, abbiamo creato valore a un'azienda, eravamo un'azienda partecipata da tanti private equity, 3 o 4. Sono impegnati anche loro? Sì, si sono impegnati anche loro, sono dei professionisti, un fondo americano, uno francese, uno italiano, dunque un bel team, e a un certo punto c'è una way out, no? Una via d'uscita naturale per questi signori. E beh, credo però quel livello di successo è, insomma, è pianificato? No? Non lo puoi prevedere, ecco. Però nel 2011, infatti, lei voleva già andare in borsa. Poi all'ultimo momento ha cambiato idea, il contesto, la situazione, ce lo dirà. ha scritto ai suoi uomini sparsi in tutto il mondo per scusarsi della sua decisione. Ma che cosa gli ha scritto? Ma gli ho scritto che abbiamo cambiato idea, ma non abbiamo cambiato idea per la nostra attitudine, abbiamo cambiato idea perché i mercati non c'erano più, nel senso c'era una situazione macroeconomica disastrosa nei tempi che la Grecia stava fallendo, si parlava di euro A o di euro B, e mi ricordo che il weekend prima di partire per il roadshow mi sono chiuso in una stanza praticamente da solo e ho detto forse è meglio non andare. Beh, momenti di solitudine importanti. Dottor Ruffini, ma c'è stato invece adesso un momento in cui hai detto ok, adesso sì, vado? Ma diciamo che l'azienda era pronta quel famoso giugno 2000. Ma lei, la sua solitudine attiva questa volta in positivo per dire sì, quando l'ha avuto? L'ho avuta praticamente quando ho visto i numeri del bilancio del 2012, ho detto secondo me l'azienda ce la può fare, l'azienda è pronta, mi sembra che la situazione macroeconomica ci sia, riproviamoci. È quello che l'ha convinto. Sì. Ah. Senta, ma se lei dovesse consigliare a qualcuno come si fa a scegliere il momento giusto per andare in borsa, cosa gli direbbe? Ma non credo che ci sia una regola, io credo che bisogna stare vicino al mercato, capire bene la tua azienda, capire la tua azienda e capire bene i mercati. Dunque le due cose insieme è un mix insomma, di una magia, sensibilità, è una magia. Un feeling. Ecco, lei ha curato molto però quando ha deciso di andarci, ha curato molto il modo, cioè il format, le location, i particolari, eccetera, molto importante. Sì, è molto importante, io ho cercato di comunicare in modo diverso. Ecco, no? Ha comunicato in modo diverso. Sì, certo, le banche mi dicevano bisogna fare questi roadshow, io ho detto noi siamo Moncler ma senza presunzione, cerchiamo di avere il nostro atteggiamento anche in questa cosa che peraltro non conoscevamo, per noi era una cosa molto nuova. E da lì abbiamo cambiato un po' il modo di comunicare con gli investitori e credo che ci abbiano dato ragione. E quindi certe volte è meglio non sapere come si fa, è meglio avere un pensiero laterale innovativo. Sì, un po' la nostra strada. Senta, dottor Ruffini, quando nel 2002 lei ha comprato la Moncler, abbiamo detto, fatturava 37 miliardi, vendeva il 90% in Italia, se non sbaglio. Adesso fattura 600 miliardi e vende in tutto il mondo. Ecco, il segreto, c'è stato un segreto? Ma il segreto è stato un po', diciamo, io ho comprato l'azienda, come diceva, faceva 37 milioni e oggi ne fa 600, ma di fatto la storia non era tanto il fatturato quel tempo, era che mi ricordava la storia, no? Cioè, aveva una storia incredibile, un'azienda che era nata negli anni 50, sulle Alpi francesi, io quando ero ragazzino usavo Moncler, dunque mi ricordavo questi momenti. C'aveva una passione? Ma un ricordo, più che una passione un ricordo. Una, no? Fidanzata col Moncler. Chissà, era tempo, magari... era molto maschile. Però sì. Un po' partendo da lì ho detto qui possiamo provarci a ricostruire una storia. La storia c'era, la storia era forte, bisogna solo aggiornare la tecnologia, il prodotto, la comunicazione, certo. Tutto ciò che serve perché era un'azienda. Intanto certo. Io naturalmente prima dicevo miliardi, ma erano miliardi in lire, sono milioni, sì. Ovviamente. Dottor Ruffini, si dice che lei sceglie con una cura particolare i suoi uomini. Che cosa cerca soprattutto? Ha premesso che il team è tutto, no? Nel senso che noi siamo un'azienda che gestiamo tutto il mondo direttamente, non abbiamo distributori, franchise, dunque bisogna avere un team molto forte, molto affiatato. Ma viene dal primo colloquio, no? Diciamo che dopo 3 minuti che mi siedo con una persona, non lo so, a parte che cerco l'intelligenza, questa è banale. Però non basta delle volte l'intelligenza. No, non basta, infatti è una percezione, un po' come quando ci siamo andati ci quotiamo in borsa, non ci quotiamo. No? Mi siedo al tavolo con una persona, chiacchiero, lo guardo negli occhi, sento come reagisce, gli faccio le 2-3 solite domande che lo mettono un po' in cobbe di come reagiscono. E da lì diciamo... E qual è la domanda più difficile in generale? Perché cambi posto di lavoro, quella che capisci subito se lui è in tensione, gli piace la tua azienda, se ne va perché vuole più stipendio. Dunque da lì capisci tante... Un po' della psicologia. E che cosa evita di sicuro? Cioè quello dice no, quello no. Ma qualcosa che le fa proprio... Ma sì, l'arroganza, i primi 2 o 3 minuti quando uno si vuol vendere più del necessario, quelle sono cose superflue, dunque già lì secondo me se uno parte male... Ecco, ma lei si fida, quindi mi pare di capire, si fida molto di più del suo istinto che non delle società di consulenza, di cacciatori di teste? Ma diciamo quelle ti aiutano a portarti i candidati, poi alla fine i colloqui li faccio da solo, non voglio nessuno nella stanza perché sennò non si riesce a creare quel certo, feeling, quell'umore, quella cosa che mi serve per capire se il candidato è giusto, però vado molto distinto. Cioè, un artista del colloquio, in qualche modo. Senta, dottor Ruffini, adesso gli investitori si dice che si aspettano che voi diventiate un marchio a tutto tondo, cioè non sono più minimi, accessori, profumi, qualcosa già fate, eccetera. È questo il modello di sviluppo che avete in mente oppure no? Ma io credo che bisogna stare molto attenti, ogni marca deve stare molto vicino alla radice, vicino alla propria storia. Io credo che noi non dobbiamo fare tutto, dobbiamo fare prodotti speciali fatti da specialisti, e noi cerchiamo di creare questo valore. Negli ultimi 10 anni abbiamo fatto principalmente giacche, crediamo che oggi sappiamo fare le giacche, le sappiamo fare bene. Io credo che non dobbiamo fare un total look, ecco, come negli anni 80, non credo che siano più momenti. Credo che sia importante fare delle altre categorie, ma altre categorie cosa vuol dire? Ma vicine alla marca, tipo la maglieria, una bella maglia calda, leggera, molto Moncler, no? È molto quello che c'è nel percepito della marca. Dunque, ma pian piano, veramente fatti speciali da specialisti. Non credo che bisogna fare sourcing nel mondo e mettere la propria etichetta. Credo che bisogna creare dei propri prodotti molto forti e cercare che abbiano una forte personalità, una forte identità, una forte legame con la marca. Certo. Lei ha detto: vogliamo avere una crescita ragionevole, controllata, coerente. Mi spiega ragionevole? Ragionevole è... non si può far tutto, no? Bisogna essere nelle grandi città, nelle belle location, dunque bisogna crescere, perché crescere è la base per un'azienda, però bisogna farlo ragionevolmente. È controllata? Controllata nella distribuzione, no? Perché io vedo tanti questi marchi aprono tutte le parti in franchise, con accordi con altri, con altre aziende, con altri distributori. Si mescola, si fa confusione. Io credo che c'è un grande conflitto di interessi, no? Io voglio creare una marca e gli altri vogliono solo vendere, dunque bisogna stare molto attenti. Molto attenti. È coerente un po' questo? Coerente con la nostra storia, coerente con il nostro prodotto, no? Come dicevamo prima, se noi mettiamo il nostro logo su una camicia bianca ne potremmo vendere centinaia nei pezzi, ma non lo vogliamo fare, nel senso che tradiremmo le nostre origini. Senta, Brunello Cucinelli, proprio qui, ci ha parlato di crescita garbata. Ci sono analogie fra di voi? Beh, Brunello è un grande imprenditore e condivido il 90% delle sue idee. Lei parlava di maglieria, chissà lì magari si avvicina un po'. Lui è un professionista di quello. Vabbè, però chissà. Quella è la sua radice, la nostra radice è la giacca. Vabbè, lì ci si può incontrare. Una bella maglieria sotto la giacca, insomma. Senta, dottor Ruffini, però sembra che abbiate in comune una cosa, di certo. Un modo, se posso dire così, non violento di pensare allo sviluppo in un'epoca di finanza selvaggia, è vero? Ma è fondamentale quello che ha detto, è esattamente quello. Uno sviluppo non violento, perché devi controllare tutti i processi, devi controllare la distribuzione, devi controllare il tuo consumatore, devi controllare il tuo prodotto. Non puoi crescere troppo, perché la tua produzione non ti seguirebbe. Dunque devi stare molto attento, quello potrebbe essere una droga fatale. Fatale. Ecco, ma quante tonnellate di piume per fare queste meravigliose giacche comperate all'anno? Ma infinite, nel senso che noi cerchiamo di avere la miglior piuma del mondo, è un po' il discorso di prima, no? Dunque cresciamo perché... Ma quante ne comprate, più o meno, diciamo? Ce l'ha un'idea? Sì, ce l'ho, ma non... Mi dica, no. Non vorrei dire delle cose sbagliate, però ma all'ordine di grandezza... Tonnellate. 100 tonnellate, 200? No. Non avremo lo spazio per contenerle. Senta, ma mi dice dove le comprate? Ma anche lì no, le compriamo il più vicino possibile a noi, perché vogliamo controllarle bene. Compriamo in Italia, compriamo in Francia, dove c'è la miglior piuma del mondo, ma anche in Russia, in Polonia, stiamo iniziando col Canada. Andiamo in giro a cercare nel mondo la miglior qualità di piuma. Ecco, ma mi dice una piuma... Una piuma come fa a essere migliore dell'altra? Che c'ha di cosa, da dove si vede? Beh, abissale, ha il potere gonfiante, sono le più piccole, le più morbide, sono le migliori. Dunque, quando vai le più piccole e le più morbide. Sì, dunque che hanno un buon potere gonfiante, che metti poca piuma ma il piumino e la giacca sembra... E chi le fa queste piume più piccole e più morbide? E ci sono gli allevatori bravi, gli allevatori meno bravi, no? O se no la qualità che tu vuoi, ci sono delle qualità molto meno buone anche nella stessa Quindi parte. Quindi voi coltivate anche il rapporto con gli allevatori? Beh, con il nostro fornitore è fondamentale, no? Il fornitore per noi è tutto. Ma è vero che le piume che non comprate mai sono le piume cinesi? Ma per il momento non siamo ancora andati in Cina. Non siete andati, oppure sapete che sono piume che non vanno bene? Non l'abbiamo mai... In Cina vendete molto. Quindi... Sì, vendiamo ma non compriamo. Non abbiamo mai analizzato il mercato, come dico, stiamo più vicino possibile a noi. Perché credo che anche i nostri ragazzi devono andare a controllare la qualità prima che spediscano, è fondamentale. La Cina è molto lontana, magari un domani se ce ne servirete più, ma speriamo. Senta, dottor Ruffini, le aziende del lusso quotate a Milano sono oggi 17, valgono 32 miliardi più o meno. Altre aziende per circa 26 miliardi potrebbero quotarsi. Ha senso specializzare nella direzione del lusso la Borsa di Milano per dare una prospettiva oppure no? Ma la Borsa di Milano è una grande azienda, a noi ha dato una grandissima mano, credo che è un grande... Ma ha senso immaginare una specializzazione? Si parla, no, di un indice del lusso, la Borsa di Milano potrebbe essere un grandissimo polo di attrazione. No, perché Londra l'ha fatta, si è candidato in qualche modo a essere il mercato per le biotecnologie grazie agli sgravi fiscali che ha proprio questo settore, quindi insomma può essere una strada. Ma se una borsa può farla, l'italiana sarebbe ideale. Mix 24. Dottor Ruffini, lei dice che il bilancio della sua esperienza in borsa, magari il successo pazzesco di cui abbiamo parlato, lo farà fra 10 anni. Perché fra 10 anni? Ma perché non voglio essere schiavo di queste trimestrali, no? Questi investitori che ogni 3 mesi dicono perché hai fatto questo o quello. Io non credo che vada cambiata la propria strategia ogni 3 mesi per arrivare a un risultato. Io credo che bisogna creare una marca forte, certo. Un gran legame con i consultori. Sedimentare. Esatto, io sono convinto che i risultati arriveranno e arrivino, e dunque non correre dietro alla trimestrale. E quindi appunto queste valutazioni fatte sulle trimestrali in fondo... il non farle così, che questa è la moda, è abbastanza rivoluzionario. Sì, no, ma potrebbe essere anche un grande problema per un'azienda, no? Se ogni mese gestirla in base ai numeri che devi portare dopo 2 mesi, credo che non sia costruttivo per la marca. Anche nel rapporto con i manager, no? Specialmente i ragazzi che lavorano da noi, appunto. Ma non tutte diventano. Io dico a tutti, lavoriamo come abbiamo sempre fatto. Che... Tranquilli. Esatto, questo è fondamentale. Non montiamoci la testa. Senta, quindi... L'appuntamento per la valutazione dell'avventura in borsa 2020. Va bene, ok. Dottor Ruffini, in borsa oggi intanto la Apple ha sorpassato Microsoft. Ma vuol dire che il valore estetico e l'esperienza di prodotto contano più del valore tecnologico? No? Ma diciamo la tecnologia per loro è comunque per noi la qualità, è fondamentale che tu ce l'abbia, ma il valore estetico è data per scontata, conta molto, ma insieme molto alla percezione della marca. Io credo che la percezione della marca e il valore estetico, la tecnologia ci deve essere, perché sennò... No, naturalmente, insomma, è l'a priori, diciamo, esatto. Questo naturalmente. Ma però, in qualche modo, è un segno di un cambiamento verso un capitalismo estetico, culturale, oppure è una mia fantasia? Ma è fondamentale, no? Mi sembra che tutto sia un po' così, no? Una tecnologia, ma non parlo di tecnologia, ma parlo anche di qualunque altra cosa... L'estetica oggi, ribadisco, in vicino alla percezione della marca, perché il sogno che tu puoi creare, Apple è stato un genio, infatti. Ha creato un sogno pazzesco con un'estetica molto bella, credo non nel mio settore, ma con una buona tecnologia. Senta, secondo lei, quotare in borsa la cultura, per esempio creando una società ad hoc che possa portare Pompei sui mercati dei capitali, si può fare un'eresia? Ma bisogna lavorarci, il prodotto c'è sicuramente, e però come in tutte le aziende ci vogliono anche tante altre cose, bisogna saper comunicare un progetto, bisogna saper attrarre il consumatore. Non facile, però è una bella idea. Senta, dottor Ruffini, il Made in Italy è al 5° posto tra i brand nazionali globali, dopo gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, il Giappone, non è un po' indietro, no? Ah sì, ma l'Italia ha dei grandissimi valori. Io dico, ogni volta che viaggio mi dicono l'Italia cosa sta succedendo. Beh, dico, io negli ultimi 5 anni ho vissuto in Italia, la mia azienda italiana, e io credo di aver creato del valore. Dunque credo che l'Italia si possa fare, si possa anche fare bene, nonostante la situazione macroeconomica e politica forse complessa. Ne parleremo. Senta, Farinetti qui ci ha detto che lui vorrebbe un marchio unico per il Made in Italy. Lei è d'accordo o no? È un'idea o no? Ma mi sembra un po' complicata, Farinetti è una grande azienda che all'interno del suo marchio, anche il nome dell'Italia, ha avuto una grande intuizione, credo che avere un Made in Italy per tutti i marchi sia un po' complicato. Senta, ma la contraffazione nel vostro settore quanto pesa nel limitare lo sviluppo del Made in Italy? Beh, la contraffazione è un problema. È una battaglia persa oppure si può combattere? Si può combattere, ma è una battaglia molto difficile, specialmente la battaglia sul digitale. Perché sul digitale? Ma perché una volta quando c'erano nei marciapiedi o sulle spiagge quei signori che vendevano i nostri piumini, in qualche modo li abbiamo combattuti. Però certo, quando, sul digitale quando ti trovi i siti di prodotti nostri finti, parlo di noi perché non conosco quello degli altri, che devi andare a trovarli dove loro sono, è molto più complicato. Senta, Frida Giannini, la direttore creativo di Gucci, dice che dal governo Renzi lei si aspetta una valorizzazione comunque del sistema moda, anche lei? Speriamo. Ma ci crede? Ma ci credo, mi sembra che stiano lavorando tanto, vediamo i risultati. Lo conosce? Non lo conosco. Dottor Ruffini, è vero che lei da giovane era un po' paninaro? Diciamo che avevo un piumino Moncler a 14 anni. Va bene. Senta, in fondo anche Renzi potrebbe essere considerato un paninaro postmoderno. Ma quando è stato eletto segretario del PD ha parlato di Moncler, ha detto anche se non amavo i paninari, oggi Moncler ha fatto un buon lavoro. Dunque... Senta, dottor Ruffini, intanto oggi lei è diventato in poco tempo miliardario in euro. Dalla testa la ricchezza di queste dimensioni, così anche abbastanza, pur essendo di famiglia benestante, ricca. Ma guardi, lì sono delle azioni, sono dei pezzi di carta per il momento. Io continuo a fare la mia vita, sono sempre con la mia famiglia. Non è cambiato niente. Esatto. Quindi non c'è bisogno di un antidoto. No, a me... È vivere la propria vita. Per quanto mi riguarda, non mi ha cambiato assolutamente niente. Anche per i suoi figli? I miei figli non lo so, spero di no, anche se ribadisco sono tanti pezzettini di carta, dunque spero che non si illudano. Per il momento, esatto, bravo, per il momento uno lavora, l'altro deve finire la scuola, dunque quindi che vadano avanti così. C'hanno il tempo. Lei cosa vorrebbe essere sicuro di avergli insegnato? Ho visto, studiando sull'intervista per lei, che suo padre è stato importante per lei. Mio padre è stato importante, io credo di essere stato importante ai miei figli. Cosa vorrebbe avergli insegnato di sicuro? Beh, a vivere, no? Nel senso, oggi credo che la propria indipendenza, gli ho sempre lasciati fare con un guinzaglio, no? Quasi invisibile. Un guinzaglio molto lungo e quasi invisibile. E credo che questa sia la difficoltà per l'educazione di un figlio. È più lei o sua moglie? Ma è un team. Moglie conta molto in questo equilibrio. Beh, siamo una famiglia, no? Dunque. Senta, dottor Ruffini, si discute molto sulle retribuzioni dei manager, ne avevamo accennato prima, è una polemica forte, è una polemica giusta? Ma dipende, no? Io credo che gli stipendi che hanno una grossa parte variabile, se un'azienda ha dei grandi successi, dei grandi risultati, è giusto che anche i manager, tutti i dipendenti guadagnano più soldi. Ma i tetti ai manager, ai grandi manager pubblici, ha senso oppure no? Ma adesso diciamo secondo lei, sinceramente, ma vedo più il mercato internazionale, no? Vedo negli Stati Uniti sono degli stipendi che veramente fanno paura, sono stipendi miliardari cioè, che fanno impressione, sì. Per quanto riguarda l'Italia faccio più fatica a trarre le conclusioni. Ecco, il simbolo appunto di questo turbo capitalismo finanziario è Gordon Gekko. Senta qua, l'avidità, non trovo una parola migliore, è valida, l'avidità è giusta, l'avidità funziona. L'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. D'accordo? Abbastanza. Senta, dottor Ruffini, ma può reggere un mondo in cui 80 capitalisti detengono la ricchezza di 3 miliardi di persone? Il mondo è così, mi sa che diventerà ancora reggere. Peggio. Ma 80, meno di 80 diventano 40. Sì, mi sembra veramente. Poi uno solo c'ha tutto. Però il mondo sta funzionando così, se uno guarda. Ma può funzionare secondo me? È molto difficile. Senta, all'estremo opposto c'è Papa Francesco, senta un po'. Non è un problema soltanto dell'Italia o di alcuni paesi d'Europa, è la conseguenza di una scelta mondiale, di un sistema economico che ha al centro un idolo che si chiama denaro. Ha torto, quindi? Non ha torto, no. Papa Francesco è un grande uomo, no? La torto non ce l'ha, il mondo però funziona così, giusto o sbagliato quindi, che una sia. Una battaglia persa la sua, sì. Ma diciamo speriamo di no, ci vuole come tutte le cose ci vorrebbe un buon equilibrio, no? Credo, però il mondo è un po' quello oggi. Lei crede in Dio? Ma credo in Dio, sì. Dottor Ruffini, lei dice che il suo orizzonte è il mondo, ma per lei svegliarsi a Como è il modo migliore per iniziare la giornata. Perché? Cosa le dà Como? Ma sono nato lì, è un po' come Montclair, la mia radice, Grenoble 1952, mi sveglio a Como, sono nato lì 1961. Quindi le dà identità stare a Como? Sì, mi dà serenità. La forza per andare nel mondo? Mi dà serenità, mi dà serenità. Senta, ma è vero che da giovane studiava poco? Abbastanza poco. Sì. Dico abbastanza, poco, perché non vorrei che sentissero i miei figli. Ah, va bene, allora niente, questo non ho sentito. Senta, ma ai giovani consiglia di lavorare o di studiare? Ma studiare è fondamentale, a me è mancato molto. Perché? Ho iniziato a lavorare a 21 anni, dunque non ho fatto l'università e su tante piccole cose mi sono sentito che se avessi studiato sarebbe stata un'altra cosa. Ma perché? Cosa vorrebbe sapere di più? Ma anche nel lavoro di tutti i giorni, un bilancio, la prima volta quando l'ho visto mi sembrava... Vabbè, quello ho strogato anche per molti che si sono laureati. Però avevi una cultura di base, vedo i miei figli che hanno fatto due economia, che comunque permettono un bilancio, quantomeno lo sanno leggere. Io sono stato autodidatta, mi sono dovuto imparare a memoria, capire, vedere, andare a guardarmi sui libri cosa voleva dire, sono delle parole che non sapevo neanche. Dunque, mi sembra che abbia avuto un certo successo in questo essere autonomo nella formazione. Autodidatta. Forse, se studiavo 2 o 3 anni in più avrei qualcosa più facile. Sì. Più miliardi ancora? No, ma non nei soldi, ma più no, semplicità nel day by day. Più semplicità nel day by day. Quindi è pentito un po' di non aver... Sì. Senta, dottor Ruffini, le faccio un'ultima domanda. Ho letto che Steve Jobs è il suo mito, non so se è vero, ma se è vero perché? Ma ha fatto una grandissima azienda, quello che dicevamo prima, no? Ha creato una buona tecnologia con un'estetica, una grande percezione di marca. Ma quindi come lavoro, non come persona? No, non lo conosco come persona, non l'ho mai giudicato, l'ho giudicato per quello che ha realizzato nella sua vita professionale, credo che è stato un gioco pazzesco. E c'ha un uomo, un un idolo, un modello, qualcuno che le piace veramente molto, che le piacerebbe, a cui piacerebbe assomigliare? Ma sì, sono tante, non c'è una persona, no, però cerco di prendere un po' di qua, un po' di là, nel senso che ci sono delle persone che mi piacciono molto, hanno una grande visione, magari hanno un caratteraccio, dunque lasciamo da parte il caratteraccio, guarda, prendiamo la visione, cerchiamo di fare un mix, no? Grazie. Mix 24, la storia. Erano le 9 di sera e ricevo una telefonata, era lui, Carlo, dalla chiesa. Il 3 settembre verso le 9:05 di sera Emanuela chiama da Palermo, rispondo io, le passo subito mamma. Emanuela cercò di farle capire che non poteva parlare. Riprende un attimo la comunicazione 10-15 secondi dopo e dice: mamma, ti voglio tanto bene. Queste furono le ultime parole che Emanuela comunicò a mamma. Palermo, 3 settembre 1982, ore 21:15. Venerdì 3 settembre 1982 a Palermo viene ucciso Carlo Alberto dalla Chiesa. Con lui muore la giovane moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente della scorta Domenico Russo, piemontese di Cuneo, 62 anni dalla Chiesa, è un carabiniere rispettato e temuto, sempre al centro di vicende clamorose. Oggi su Mix 24 raccontiamo la storia di un generale al servizio dello Stato, spesso lasciato solo, determinato, tenace nella lotta contro il terrorismo. Ed è proprio a lui, nel 1982, che il governo si rivolge per fronteggiare la nuova emergenza del paese, l'emergenza della mafia. Il 30 aprile di quell'anno Carlo Alberto Dalla Chiesa arriva in una Palermo insanguinata con il peso e la responsabilità del nuovo incarico. 10 morti nell'80, 50 nell'81, quasi 20 solo nei primi 4 mesi dell'82. In Sicilia è una vera e propria mattanza. È il 1982 e il 30 aprile Dalla Chiesa è in volo per Palermo. Sull'aereo scrive una lettera ai figli e le sue parole sembrano quasi una premonizione. A parlarcene sono i figli Simona e Nando Dalla Chiesa. Miei cari ragazzi, vi scrivo da 7-8 mila metri d'altezza in cielo mentre l'aereo mi porta veloce verso Palermo, verso il mio nuovo incarico. In questo momento mi sento più vicino alla vostra mamma e la sua immagine mi ritorna com'era, bellissima. Voglio dirvi che ho fatto una divisione dei suoi gioielli tra voi, spero con giustizia. Vi voglio bene, tanto, e in questo momento vi chiedo di essermi vicini. Vi abbraccio forte forte, il vostro papà. Per dare la misura di quel clima, basti dire che il giornale L'Ora, che appoggiava mio padre, pubblicò lettere di cittadini di questo tenore. Il generale Dalla Chiesa può diventare una sciagura per Palermo. Se si mette a fare il super poliziotto contro i trafficanti di droga, finisce che rovina questa città. Si immagini tutti quelli che oggi campano con i proventi della droga buttati sul mercato dei disoccupati. Metterebbero a sacco le nostre case, non potremmo più uscire la sera. Ci scipperebbero, scassinerebbero negozi, ville, uffici. Non ci sarebbe più pace, mi creda. I ristoranti non sarebbero più sicuri. Le nostre mogli non potrebbero più uscire in pelliccia. No, deve stare attento a quello che fa questo generale piemontese. Si respira un'atmosfera strana in Sicilia in quell'aprile del 1982. Ancora prima che il generale Dalla Chiesa arrivi a Palermo, il sindaco della città, Nello Martellucci, commenta così l'arrivo del nuovo prefetto. Non parlerei di mafia, ma di criminalità organizzata. Tra i tanti morti ammazzati palermitani ci sono anche cadaveri eccellenti. Il procuratore Scaglione, il procuratore Costa, il capo della mobile Boris Giuliano, Cesare Terranova, Mattarella, Reina, Basile. Tutti testimoni di come in Sicilia i rappresentanti dello Stato siano già da tempo impegnati nella lotta alla delinquenza. E ricordo che mio padre lo prese come un avvertimento, questo lo ricordo perché me lo disse. E in seguito a questo avvertimento scrisse la lettera a Spadolini. Gentilissimo professore, Mi corre l'obbligo di sottolineare alla sua cortese attenzione che la eventuale nomina a prefetto non potrebbe bastare da sola a convincermi di lasciare l'attuale carica. Non può e non deve avere come implicita la lotta alla mafia. Dal governo, insomma, dalla Chiesa pretende poteri speciali e carta bianca. La lotta alla mafia va combattuta con la stessa determinazione e gli stessi mezzi che hanno consentito di sconfiggere il terrorismo. Anche in questo caso dalla Chiesa non ammette mezze misure, nella sua determinazione c'è naturalmente l'impronta del leader, del combattente, del vero capo. Ne parlano Francesco Cossiga e Niccolò Bozzo. Uomo di un'onestà totale, uomo molto sicuro di sé, senza peli sulla lingua, poliziotto che detestava gli attenti e i riposi. Era considerato un superiore difficile. E ci si augurava sempre di non incontrarlo nel corso della carriera, un superiore come Calalberto Dalla Chiesa. Amo soprattutto i miei carabinieri, di oggi e di sempre, anche in congedo, anche se non esistono più. Un carabiniere tutto d'un pezzo, ma anche un uomo generoso con i suoi soldati e perfino con un imprevedibile côté mondano. Mix 24, la storia. Amo soprattutto i miei carabinieri, di oggi e di sempre, anche in congedo, anche se non esistono più. Bentornati a Mix 24. Il 3 settembre dell'82 a Palermo viene ucciso dalla mafia il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il prefetto inviato dal governo per sconfiggere la nuova emergenza mafiosa in Sicilia. Il suo nome, infatti, è una garanzia, la sua carriera costellata di numerosi successi. Siamo nel 74, a Genova. Le Brigate Rosse hanno rapito il giudice Mario Sossi. L'Italia è piombata nell'incubo del terrorismo e il generale pensa a un metodo nuovo per combatterlo. A raccontarcelo è l'ex generale dei Carabinieri e suo collega Niccolò Bozzo. La Chiesa pensò e me ne parlò ad un nucleo speciale, cioè composto da elementi che già avevano maturato esperienza nello specifico settore e che dovevano essere concentrati a Torino presso il comando della sua brigata e occuparsi solamente ed esclusivamente di antiterrorismo. Ma i vertici dell'arma non ne vogliono sentire parlare. Temono i personalismi e di perdere il controllo. L'idea del nucleo speciale piace però al ministro dell'interno Paolo Emilio Taviani, che la impone al comando generale dei Carabinieri con una lettera. Quando questa lettera arrivò sul tavolo del comandante della divisione, si imbufallì terribilmente col comando generale e scrisse di suo pugno con la biro rossa: non serve a un In contrasto con i suoi superiori, quindi, ma con l'appoggio della politica, il generale Dalla Chiesa costituisce il nucleo speciale antiterrorismo. È il 22 maggio 1974. Ma l'idea dei nuclei speciali nasce da un'esperienza del passato del generale Dalla Chiesa. Nell'estate del 1943 il generale entra nella resistenza ed è proprio tra i partigiani che apprende le tecniche di guerriglia di cui si servirà 30 anni più tardi contro il terrorismo. Domenica 8 settembre 1974. I carabinieri del suo nucleo speciale mettono a segno un colpo sensazionale. A Pinerolo finiscono in manette Curcio e Franceschini, fondatori e capi storici delle Brigate Rosse. Il successo dell'operazione si deve soprattutto ad un infiltrato, Silvano Girotto, detto Frate Mitra, che intervistato da Sergio Zavoli nel 1990 dice: il mio ruolo non è stato di informatore, così nel senso volgare del termine, quello che fa la soffiata, poi i carabinieri facciano la loro operazione. Ero a Pinerolo quando sono stati arrestati, ero a 3 metri da loro quando sono stati arrestati e sono stato io che ho dato per radio il via all'operazione. Anche l'infiltrazione è una tecnica che il generale introduce nella lotta al terrorismo. Ma è un metodo che nell'Italia di quegli anni molti contestano, criticando l'uso spregiudicato dei traditori. Il generale è costretto a difendersi da critiche e polemiche. Se è vero che l'infiltrazione esisteva fin dai tempi dei babilonesi, È anche vero che in tutte le guerre tutti gli eserciti hanno attinto a piene mani al nemico vinto. Anche nell'infiltrare i suoi uomini nelle bande terroristiche c'erano sempre dei limiti che venivano posti. Non partecipare comunque a delitti contro la persona, ma sì un attentato incendiario contro un'auto che potesse fungere da ingresso, da legittimazione all'ingresso nel gruppo terroristico. Avete sentito Nando Dalla Chiesa, figlio del generale. L'arresto di Curcio e Franceschini, così spettacolare e clamoroso, suscita subito polemiche. Ma è solo invidia per quel reparto troppo autonomo? Oppure ha ragione chi si chiede perché l'inchiesta è stata chiusa così in fretta? Dopotutto, se Dalla Chiesa avesse aspettato qualche giorno, l'operazione avrebbe portato all'arresto di tutto il nucleo delle BR, incluso Mario Moretti. Il primo trionfo di Dalla Chiesa, insomma, si trasforma subito in una polemica. Perché Dalla Chiesa non ha aspettato a far scattare quell'operazione? E poi, se avesse aspettato, davvero avrebbe potuto arrestare anche Mario Moretti, che 4 anni dopo avrebbe rapito Aldo Moro? Ma le polemiche si portano dietro certamente anche l'invidia per il successo di quelle operazioni e le critiche per quel generale troppo ingombrante e troppo protagonista. Il nucleo antiterrorismo viene così smantellato e Dalla Chiesa viene trasferito, e il 76 a parlarcene sempre l'ex generale Niccolò Bozzo. Era un uomo distrutto, quando improvvisamente al comando della prima brigata di Torino si presenta il generale Franco Picchiotti, ma era già fuori dall'arma, e gli dice: Carlo, ti vedo un po' abbattuto, come mai, cos'è che non va? Dice: ormai la mia carriera è finita, si è conclusa, mi mettono a disposizione, ho finito. Dice: ma no, ma non ti devi abbattere così. E c'è tante, le strade del Signore sono infinite, eccetera. Ma perché non vieni con noi? Se vieni con noi vedrai che ti risolviamo tutti i problemi. Ma tu con voi chi? La P2, la loggia massonica per le alte autorità, eccetera. E dice: ma no, io con la massoneria, io sono cattolico, non... E dice: no, guarda, io ti lascio qua il documento per la filiazione. Cosa fa Dalla Chiesa? Chiama il comandante generale e gli dice: guardi, è venuto qua il generale Picchiotti, così, così, così. E dice: beh, cosa c'è di male? E dice: ma no, non ci vedo nulla di male, dice il comandante generale. Allora lui ha capito, ha firmato, gliel'ha consegnata, trasferimento, non si è più parlato di trasferimento, va all'avanzamento, viene promosso generale di divisione, parliamoci chiaro, no, non lo volevano fra i piedi al comando generale o in qualche altra, in qualche divisione, l'hanno mandato al Dipartimento Sicurezza delle Carceri. Il comando generale dell'Arma dei Carabinieri non lo voleva. Nel 76 dunque Dalla Chiesa accetta di firmare il modulo per essere messo nella P2. Ma intanto quella nomina responsabile della sicurezza esterna delle carceri sembra un incarico amministrativo, lontanissimo da quella operatività concreta che piace tanto a Dalla Chiesa. Lui, il generale, non si dà per vinto. Anche questo incarico può essere un modo per continuare la sua lotta contro il terrorismo, infiltrandosi e spiando i detenuti. E del resto il terrorismo è sempre più un'emergenza nazionale e di lì a poco per lo Stato c'è la disfatta. La disfatta del sequestro e dell'omicidio di Aldo Moro. Con l'assassinio di Aldo Moro lo Stato decide di reagire e ancora una volta la scelta ricade su di lui, sul generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ce lo spiega l'allora ministro degli interni Virginio Rognoni. Venivamo dalla sconfitta dello Stato. Dalla sconfitta dello Stato dovuta all'assassinio di Moro. Dovevamo fare luce su questa tragedia del Paese. Si trattava di fare qualcosa che potesse in qualche modo tranquillizzare da una parte l'opinione pubblica, che si domandava quando mai il terrorismo poteva finire, e dall'altra parte provocare inquietudine, rabbia nella corporazione dei violenti, nella corporazione dei brigati rossi in particolare. Quindi scelsi, d'accordo con il Presidente del Consiglio e con i ministri competenti, il generale della Chiesa. Dalla Chiesa di nuovo a capo di un nucleo speciale antiterrorismo, ora naturalmente ha la carta bianca che si desiderava. Ma in quella primavera del 78, proprio quando il generale sta cominciando la caccia agli assassini di Aldo Moro, la sua vita viene sconvolta da un evento privatissimo e molto doloroso: la morte della sua prima moglie Dora. Sono oltre 40 giorni da che vivo senza quella creatura, senza un segno di colei alla quale avevo donato dall'età di 19-20 anni la mia stessa esistenza. Queste note sono state scritte da mio padre non pensando a una loro pubblicazione futura. Era un diario del tutto personale che gli teneva tutte le sere, erano lettere immaginarie a mia madre morta nel 78. La mia Doretta a me ha dato tutto nel senso più pieno, più bello, più sano. Ha dato i suoi misteri stupendi di donna, di madre, di amica nobile e coraggiosa. Chi avrebbe detto, Doretta mia, che proprio quel cuoricino così innamorato del suo sposo, del suo uomo, del suo Carlo, così vivo e capace di darmi tanta felicità, avrebbe d'un tratto ceduto al tormento di una vita condotta tra tanti sacrifici, e per colpa mia. Tu non dicevi nulla, tu ti maceravi dentro, tu soffrivi senza una parola, perché il tuo Carlo non avesse soste, non avesse inciampi, non avesse remore. Quanto mi tormentano, Dora mia, questi scrupoli. Mia mamma è sepolta a Parma e lui ha continuato a mantenere questo filo diretto con mamma, che non si è spezzato, non si è spezzato questo filo con mamma. Mia madre era la custode dei segreti di mio padre, mia madre sapeva tutto di mio padre. A noi nascondevano tutto quello che poteva essere giusto nasconderci, no, del lavoro di mio padre. Era la figlia del generale, Rita Dalla Chiesa, su Mix 24. Continuiamo subito dopo la pubblicità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24 con la storia di Carlo Alberto Dalla Chiesa, il generale ucciso a Palermo dalla mafia il 3 settembre dell'82, un generale in trincea, anche nella lotta contro il terrorismo. Siamo nel 78, il paese è ancora sotto shock per il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro, e Dalla Chiesa ha una missione importante: trovare gli assassini del leader della Democrazia Cristiana. Da oggi nessuno di voi ha più un nome, una famiglia, una casa. Da adesso dovete considerarvi in clandestinità. Io sono il vostro unico punto di riferimento. Io vi darò una casa, io vi ordino dove andare e cosa fare. Il paese è terrorizzato dai brigatisti. Da oggi sono loro che devono cominciare ad avere paura di noi e dello Stato. Nel gruppo di Dalla Chiesa c'è anche il capitano Roberto Arlati. E Arlati ha una sorpresa per il generale. Da mesi Arlati tiene sotto osservazione il covo dove si nasconde il capo brigatista Lauro Azzolini. L'indirizzo è Milano, via Montenevoso 8. Tenendo d'occhio quel covo si può arrivare ad altre basi e altri brigatisti. All'improvviso, la svolta. Nel covo arriva Nadia Mantovani, come racconta il generale che ha partecipato alle operazioni, Niccolò Bozzo. La compagna di Curcio, il ministro dell'interno era particolarmente sensibile alla cattura di questa persona. Dalla Chiesa dice: intervenite subito. Domenica 1 ottobre 1978, ore 7. Il capo brigatista Lauro Azzolini esce dal covo di via Montenevoso. Alcuni carabinieri lo seguono e lo arrestano appena voltato l'angolo. Il capitano Roberto Arlati e i suoi uomini nel frattempo irrompono nel covo, dove arrestano Nadia Mantovani e Franco Bonisoli. Ma nell'appartamento, oltre ai due pericolosi brigatisti, i carabinieri trovano qualcosa di esplosivo. Il capitano Arlati avverte subito il suo superiore, il colonnello Bozzo. Mi dice: guardi che qua c'è un mare di documenti e c'è delle lettere di Moro. Lettere di chi? Di Moro. Sono le carte di Aldo Moro, è una scoperta sensazionale, ma quelle carte diventeranno anche uno dei misteri irrisolti del caso Moro. Cosa contenevano davvero quelle lettere, quel memoriale? E quel memoriale arrivò al governo integralmente oppure mancavano delle pagine? E ancora esiste un solo memoriale di Moro o più di uno? Chi fa credere di sapere molte cose su questo tema, su questa vicenda, è tra gli altri il direttore di una rivista molto chiacchierata, ma sempre ben informata. È il giornalista Mino Pecorelli, direttore di OP. A parlarcene il membro della Commissione parlamentare Moro, Sergio Flamini. Ed è documentato che il 4 di ottobre, alcuni giorni dopo al blitz di via Montenevoso del 1 ottobre, egli si incontra con Dalla Chiesa. E dopo comincia una serie di pubblicazioni. Parla di memoriali, non di un memoriale. Dice, se quello è il memoriale, ce n'è un altro che contiene segreti di Stato. Poi addirittura arriva a prevedere la morte, l'uccisione di Dalla Chiesa, quando descrive in una lettera la probabilità che capiti a Dalla Chiesa un incidente mortale. E termina la sua lettera con la parola Amen, un riferimento preciso a Dalla Chiesa. Ma invece di Dalla Chiesa, ad essere ucciso è Mino Pecorelli. Il giornalista viene freddato il 20 marzo 1979, proprio nei giorni in cui ha promesso di pubblicare sulla rivista OP l'intero memoriale Moro. A rendere ancora più inquietante questo scenario ci sono le dichiarazioni di Maria Antonietta Setti Carraro, madre di Emanuela, la seconda moglie del generale. Dopo la sua morte, la mamma riporta queste confessioni fattele dalla figlia. Col cucco che gliela date tutte ad Andreotti le carte di Moro. Io so cose tremende che se ti dicessi non ci potresti credere, ma non posso dirtele. Carlo mi ha fatto giurare di non dirle a nessuno. Carlo Alberto Dalla Chiesa sapeva molte cose. Dal punto di vista militare, l'operazione di via Montenevoso è stata un trionfo. 3 Covid smantellati, 9 brigatisti arrestati, tra loro anche Lauro Azzolini, ricercato, e Franco Bonisoli, autori materiali del sequestro Moro e della strage di via Fani. Per Dalla Chiesa però è solo l'inizio. Un anno più tardi il generale arresta Patrizio Peci. È il primo pentito delle Brigate Rosse che proprio Dalla Chiesa convince a rivelare fatti, nomi, covi. Patrizio Peci porta i carabinieri Dalla Chiesa nel covo brigatista di via Fracchia a Genova. È l'alba di venerdì 28 marzo dell'80. E questo è il racconto dell'ufficiale che ha guidato quell'operazione, Michele Riccio. Eravamo in 6, ricordo. Io e altri 2 miei marescialli davanti alla porta e ad altri nelle scale. Sono le 4:30 del mattino, disse, aprite, carabinieri. A quell'ora chi poteva essere? 2-3 calcioni ben assestati alla porta, si spalanca. Non sento nessuna voce, un buio totale. Di fronte dico, arrendetevi, siamo carabinieri. E invece, proprio a lacerare quel silenzio, sento esplodere un colpo e dico, caspita, sparano. È qui che voglio precisare che il primo a cadere per terra fu un nostro maresciallo, il maresciallo Benacco. Lo vedo cadere all'indietro e mi cade sul fianco. Che non fu colpito ad un mignolo o ad una gamba. Un fiotto di sangue alto come una fontana, mi sembra proprio un getto di sangue. Ma fu colpito in un occhio, e l'occhio è nella testa. È come se fosse stato ucciso praticamente, solo che la fortuna lo ha aiutato. E gli vedo l'occhio penzolare dal viso, e quello che mi aveva più colpito, che con la mano ricercava il mitra e diceva no, non mi sono detto nulla, non mi sono fatto non dite nulla a mia moglie, non mi sono fatto nulla. Quindi la reazione dei carabinieri intervenuti fu non solo legittima come difesa, ma fu proporzionata all'offesa ricevuta. E ho iniziato a sparare, anch'io. Le polemiche che sono venute dopo sono polemiche che necessariamente accompagnano eventi cruenti come è stato l'irruzione di Via Fabio. Non gli chiesi mai nulla dell'operazione fatta a Genova e nulla gli chiese la magistratura. Erano Virginio Rognoni e Francesco Cossiga, ma nonostante i dubbi e le polemiche per la morte dei quattro brigatisti, il blitz di Via Fracchia è l'ennesimo successo di Dalla Chiesa e dei suoi nuclei speciali. Dalla Chiesa è all'apice della sua carriera e della sua fama. Agli inizi dell'81 Dalla Chiesa chiede e ottiene di andare a dirigere la divisione Pastrengo a Milano. Anche suo padre, molti anni prima, aveva guidato quella divisione. Poi però succede l'imprevedibile. E il 17 marzo dell'81 la Guardia di Finanza scopre a casa di Licio Gelli l'elenco degli iscritti nella loggia massonica P2. Arezzo, martedì 17 marzo 1981. Nella villa di Licio Gelli, i magistrati di Milano scoprono una lista di 963 uomini. Sono generali, ammiragli, giornalisti, medici, industriali, autorità di ogni ordine e grado. Appartengono tutti alla loggia massonica P2 e la P2, è subito chiaro, è nel cuore di tutte le più importanti istituzioni del paese. Per settimane il paese attende di conoscere i nomi su quella lista e il generale è tra i primi ad essere indicati dalla stampa come probabile membro della P2. Lo volevano destituire, allora era già comandante della divisione Pastrengo, gli volevano togliere il comando della divisione Pastrengo. Lui voleva ritornare in possesso di quella scheda che era finita a Gelli. Perché lui non si è mai fatto... non ha mai aderito alle richieste di Gelli di formalizzare. Gli chiesi le ragioni e lui mi rispose che si era affacciato, mi pare che avesse usato questa espressione, alla P2 per vedere che cosa ci fosse dentro. Ricordi tesoro quando il Picchiotti per mesi e mesi insistette venendo da Roma a Torino perché vi aderissi? E ricordi che dopo avermi estorto un modulo immediatamente dissi che non ne volevo sapere e che volevo continuare a camminare senza il presunto aiuto di alcuno? Invece di distruggere il modulo, e benché non fosse stato seguito da alcun fatto, quel Picchiotti lo ha passato ad altri, che lo hanno custodito per 5 anni. Oggi sono usciti finalmente i famosi elenchi della nota loggia. E se sono stato al fine soddisfatto di far sapere a tutti che non c'ero, mi è dispiaciuto non poco trovarvi il nome di mio fratello Romolo. Non solo non ne aveva mai accennato, ma non lo pensavo come possibile. E può darsi che nei giorni da corsi l'equivoco nei miei confronti sia sorto proprio da ciò. Era massone, è stato sempre massone, e può darsi che dalla massoneria normale si sia iscritta la P2. Massone il padre, massone lui e massone il fratello. Hanno stracciato il foglio. E perché sarà stato stracciato il foglio? Perché c'è il nome Carlo Alberto La Chiesa e avrebbe fatto ridere tutti dire che era un'organizzazione sovversiva quella in cui c'era l'eroe del momento Carlo Alberto La Chiesa, ma lui aveva la protezione mia e di Virgilio Rognoni. La P2 nella sua carriera non c'entra nulla. Fin qui naturalmente le parole del presidente Cossiga, che nonostante quanto lo stesso Dalla Chiesa scriva nel suo diario ipotizza che il nome del generale fosse effettivamente su quella lista della P2 e in ogni caso l'ombra dello scandalo della P2 si allunga sulla storia di Dalla Chiesa. Mix 24, la storia. Rieccoci su Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi con Marina Milone è la storia di un uomo dedito al servizio dello Stato, è Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nel dicembre dell'81 Dalla Chiesa viene nominato vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. Apparentemente è una promozione, il grado più alto per un carabiniere. In realtà però è di nuovo un incarico amministrativo, lontano dalle prime linee e lontano dall'operatività. Eppure proprio in questo periodo, pieno di amarezze, la vita di Dalla Chiesa ha una svolta imprevista. L'incontro con Emanuela Setti Carraro, come racconta la figlia Simona Dalla Chiesa. Lui aveva molto pudore di questa storia di amore nata con Emanuela. E prima di decidersi a sposarla è venuto da ognuno di noi, che abitavamo in tre città diverse, non per chiederci il permesso, ma in qualche modo per essere sicuro che questo suo matrimonio non ci mettesse in imbarazzo, non ci facesse soffrire. Carlo Alberto Dalla Chiesa sposerà Emanuela Setti Carraro il 10 luglio del 72 con una cerimonia privata in una chiesetta del Trentino. Per il generale è solo una breve pausa di felicità. Il 2 aprile, infatti, di fronte alla nuova escalation della mafia, il governo ha deciso di nominarlo super prefetto di Palermo. Ce ne parlano l'allora ministro dell'interno Virginio Rognoni e Francesco Cossiga. Generale, abbiamo bisogno ancora di lei. Dica, ministro, cosa ne dice se noi la facessimo prefetto di Palermo? Dice, ma potrei anche accettare. Viene e mi dice, ma io sto andando a casa con Alberto, l'accompagno. Mi hanno proposto di fare il prefetto di Palermo. Lui è una brutta grana, ma lei che è servitore dello Stato non può dir di no. Dunque nella giornata di venerdì e fino a tarda ora si sono succedute le telefonate di rallegramenti e auguri. Dal ministro Rognoni al presidente del Consiglio Spadolini, dal prefetto di Roma a quello di Milano, di Torino, di Firenze, insomma tantissimi. Poi ieri anche l'onorevole Andreotti mi ha chiesto di andare. Sono stato molto chiaro e gli ho dato la certezza che non avrò riguardo per quella parte di elettorato alla quale attingono i suoi grandi elettori. 16 giugno, strage della circonvallazione. Uccisi tre carabinieri, un autista e il boss Alfio Ferlito in trasferimento al carcere di Trapani. Il generale vorrebbe mettersi al lavoro, ma non ha ancora i poteri che ha chiesto al governo. La conta dei morti va avanti ogni giorno. In questo clima, il 10 luglio, il generale viene raggiunto a Palermo dalla giovane moglie Emanuela. 4 agosto. Dall'inizio dell'anno 79 morti ammazzati. 7 agosto 86 morti. Vengono uccisi anche il cantante Pino Marchese con due amici. È una mattanza senza fine. Da Palermo, Dalla Chiesa preme sul governo di Roma, ha bisogno di uomini e di mezzi. Nel disperato tentativo di far sentire la sua voce, il prefetto decide di rivolgersi direttamente all'opinione pubblica. Il 10 agosto dell'82. Il quotidiano La Repubblica pubblica una sua clamorosa intervista a firma di Giorgio Bocca. La Repubblica titola «Un uomo solo contro la mafia». Da oggi la zona sarà presidiata a mano militari. Non spero certo di catturare gli assassini a un posto di blocco, ma la presenza dello Stato deve essere visibile. L'arroganza mafiosa deve cessare. Che arroganza, generale? A un giornalista, devo dirlo. Uccidono in pieno giorno, trasportano i cadaveri, li mutilano, ce li posano tra questura e regione, li bruciano alle 3 del pomeriggio in una strada centrale di Palermo. Se non ottiene l'investitura formale, che farà? Rinuncerà alla missione? Vedremo a settembre. Sono venuto qui per dirigere la lotta alla mafia, non per discutere di competenze e di precedenze. Ma non mi faccia dire di più. Non chiedo leggi speciali, chiedo chiarezza. Certamente quella intervista fu la sua condanna a morte, perché appunto è stato lui stesso che mi ha teorizzato questo fatto che quando la mafia sa che tu sei solo ti ammazza. Credo di aver capito la nuova regola del gioco. Si uccide il potente quando avviene questa combinazione fatale. È diventato troppo pericoloso, ma si può ucciderlo perché è isolato. Alla lettura ebbi immediatamente il desiderio di chiamare Dalla Chiesa e di chiedergli fino in fondo quali erano le ragioni di questa intervista, di questa sua inquietudine. Il rapporto fra Dalla Chiesa e il mondo politico è stato un rapporto difficile in quel momento, perché era diventato un elemento di contraddizione fra le forze politiche interna dalla Chiesa. Il governo che lo difendeva, il ministro dell'interno che lo difendeva, altre forze politiche che si domandavano il perché di questa nomina. Perché dalla Chiesa? Questo è il riquadro politico del momento. Era l'allora ministro dell'Interno Virginio Rognoni. Dalla Chiesa ha capito qual è il rischio più grave che corre nella lotta contro la mafia: stare isolato e venire lasciato solo. A Palermo, intanto, la carneficina continua senza sosta. 11 agosto, dall'inizio dell'anno, i morti ammazzati sono 93 e il 26 agosto i morti salgono a 100. I carabinieri ricevono una telefonata. Siamo i killer del Triangolo della Morte. Con l'assassino di oggi, l'operazione Carlo Alberto è quasi conclusa. Dico quasi conclusa. Mentre continuano gli omicidi e le minacce, il generale circola per la città senza alcuna protezione. Ce ne parlano il figlio Nando e Francesco Cossiga. Gli ho chiesto: ma come è possibile? Lui mi ha risposto: questo succede perché una tessera di partito conta più dello Stato. Non vi era volta che venisse a Roma della Chiesa che lo andasse a lamentarsi da Bettino Craxi. Chi aveva troppa consuetudine con Craxi era considerato male a Piazza del Gesù. Per dalla Chiesa finalmente il 20 agosto arriva un segnale concreto dal Ministero degli Interni. Dalla Chiesa finalmente ce l'ha fatta. Adesso è pronto per iniziare la guerra alla mafia, ma la mafia ha già deciso. Dalla Chiesa deve morire. E allora non c'è più tempo. È venerdì 3 settembre dell'82, sono le 21:15. In un agguato è stato assassinato il prefetto di Palermo, generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Hanno perso la vita anche la giovane moglie del generale e un agente di scorta. Ricordo io le mie sorelle, i parenti messi sempre più indietro per far mettere le autorità davanti alla bara, poi alla fine si sono resi conto che c'eravamo anche noi. Un senso di ingiustizia che mi bruciava. L'omelia di Pappalardo fu una frustata per tutti. Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici. E questa volta non è Sagunto, ma Palermo. Ricordo questa immagine delle istituzioni in fuga. Poi hanno preso noi tre e ci hanno buttati letteralmente dentro un taxi. E ricordo che si è affacciata al finestrino di questo taxi una signora che non conoscevamo, una signora di quella dei vicoli di Palermo, ha messo la testa dentro e ha detto, piangendo: ragazzi, non siamo stati noi. Scusateci, non siamo stati noi. Non me la dimenticherò mai. Giuseppe Sottile, giornalista del Foglio, responsabile dell'inserto culturale del Sabato. Lei si trovava a Palermo quel 3 settembre 1982. Come venne a sapere dell'omicidio del generale Dalla Chiesa? Beh, ovviamente mi informarono i cronisti di Nera. A quell'epoca io ero caporedattore al giornale. Fu una grande sorpresa, anche perché era inaspettato quel delitto. Inaspettato però fino a un certo punto, perché il generale Dalla Chiesa, che era arrivato con la fama dei suoi successi investigativi contro il terrorismo, in effetti aveva probabilmente peccato di qualche ingenuità nell'affrontare la mafia. Per esempio? Ma per esempio aveva esordito addirittura, se non ricordo male, con una campagna contro i venditori ambulanti abusivi che appunto vendevano il pane per le strade, e lui giustamente sosteneva che questo era già un piccolo grande abuso e che la criminalità andava anche e soprattutto contenuta con queste azioni piccole ma efficaci che poi sarebbero diventate, o lui sperava che diventassero, il segno di una rinascita di civiltà oltre che culturale. E invece si sbagliava? E invece si sbagliava, perché i problemi erano molto più profondi. Il problema poi soprattutto mafioso, non aveva la questione mafiosa, non aveva nessuna similitudine con la campagna che lui aveva fatto contro i terroristi. Cioè tra i terroristi e i mafiosi non c'erano punti in comune, e quindi la battaglia che lui aveva sostenuto contro il terrore, contro la mafia, ecco, non funzionava tanto, perché la mafia era qualcosa che era appunto radicata nel territorio, era difficile da snidare, da identificare, mentre l'azione contro i terroristi era quasi un'azione militare. Giuseppe Sottile, lei ne ha visti e raccontati tanti di omicidi di mafia quando lavorava allora a Palermo. Sì. Ma c'è qualcosa che l'ha colpita dell'omicidio di Dalla Chiesa? Beh, ogni omicidio, ovvio, ha una storia a sé. Io non dimenticherò mai questo braccio che penzolava, che era quello della Setti Carraro, della sua giovanissima sposa. Cioè, in questa come dire, contrapposizione addirittura epica tra il grande generale e i mafiosi, la cupola mafiosa, c'era questo particolare, questo dettaglio umano straziante di Emanuela Setti Carraro, appunto. Ma lui stesso si è lamentato tanto delle lettere anche ai figli, lo abbiamo raccontato, di essere stato lasciato solo, è vero? Ma sì, ma anche qui, perché la grande differenza, lui veniva da una battaglia vinta contro i terroristi. Bene, perché c'era anche uno Stato, lo Stato, le forze di polizia, gli apparati che contro i terroristi lo avevano certamente aiutato, incoraggiato, in Sicilia sostenuto. No? Lui certamente fu lasciato solo, perché fu mandato a Palermo e non gli furono dati i poteri che lui si aspettava. Giuseppe Sottile, com'è cambiata la mafia da allora? Oggi la mafia certo non ha più i metodi di quella mattanza. Probabilmente ha cambiato pelle, ma questo lo affidiamo alle indagini.